altro. Ne sogno tante, puttane, droga, hip hop e più contante. Ne voglio altre, ne sogno tante, shots per arrivare a viverla alla grande. Ne voglio altre, ne sogno tante, puttane, droga, hip hop e più contante. Ne voglio altre, ne sogno tante, shots per arrivare a viverla alla grande. Tutto il mondo occhiali da sole, zero prole, circondato da ragazze multietniche ma in prevalenza di colore. Se i due esotici ci cullan fino al sorgere del sole, finché mancano le parole, finché finisco le battone, via la nebbia dallo studio, adesso tutto è più chiaro. Nasce dall'unione tra lo stile e l'abiro, tu chiedi il giro, ti parlo di serate sulla mini insieme a Ciro. E non c'è il caso che lo sbirro sia in borghese, tanto poi lo riconosco a naso. Il braso che lì di pakistano non è strano che un ragazzino abbia tutta questa merce sotto mano. Ne voglio altre, ne sogno tante, puttane, droga, hip hop e più contante. Ne voglio altre, ne sogno tante, shots per arrivare a viverla alla grande. Ne voglio altre, ne sogno tante, puttane, droga, hip hop e più contante. Ne voglio altre, ne sogno tante, shots per arrivare a viverla alla grande. Guardo il futuro di truffa con delle Nike nuove, new era, baggy USA, stile Dodger con così tanto cash da poterlo sprecare con tanti meno stress e due fighe da scopo. Con il braccio fuori dal finestrino di una non esagerare, vienimi a svegliare piuttosto. E quando mi riprendo sarò alle prese con le stesse storie, droghe sempre in questo posto, bro. Me la sognavo tra spiagge, soldi e palme, e studio con i play, lifestyle alla grande. Invece dove mi ritrovo effetti per le strade a fare queste rime sotto strani effetti, homie. Ne voglio altre, ne sogno tante, puttane, droga, hip hop e più contante. Ne voglio altre, ne sogno tante, shots per arrivare a viverla alla grande. Ne voglio altre, ne sogno tante, puttane, droga, hip hop e più contante. Ne voglio altre, ne sogno tante, shots per arrivare a viverla alla grande. Okay. Truffa, FT, Boy Game.